E allora, sei appena arrivato in diretta, stai parlando a transizione di fase che è qui all'Indy Media Center. Allora, voi che dove eravate poco fa? Mi pare a Piramide, dove state andando adesso? Allora, io eravamo a Piramide, stiamo proseguendo, abbiamo contrattato un percorso che ci permette di arrivare alla Sapienza. Adesso non so bene come localizzarci, perché comunque siamo verso la tangenziale, verso l'Appio. Ok. Adesso cercheremo passo dopo passo di contrattare il percorso per arrivare, diciamo, incolumi tutti e tutte alla città universitaria. Va bene, hai modo di raccontarci più o meno dove eravate prima? Nel senso, noi avevamo capito che vi volevate fermare a Piramide con un concentramento lì, o forse avevamo... Da prima l'intenzione iniziale era quella di fermarsi a Colosseo. Arrivati giù al Colosseo abbiamo trovato uno spettacolo surreale. Non abbiamo trovato più al resto del corteo. Poi solo dopo abbiamo saputo che ci sono state delle violenti cariche che hanno spaccato in due il corteo. Sì, in tre il corteo in realtà. Sì, quindi poi noi ci siamo ricompattati e come sezione studentesca e non solo. Adesso avevamo valutato anche la possibilità di fermarsi a Circo Massimo, ma Circo Massimo era militarizzato. L'unica soluzione per il momento è quella di tornare alla Sapienza, anche per una questione di incolumità nostra, di tutta la gente che è qui, che è ancora migliaia di persone. Ma quindi quello che vedete intorno a voi è comunque una città tuttora bloccata, non è così? È una città bloccata, è una città surreale, è qualcosa che fa impressione, diciamo. D'accordo. Una volta arrivati alla Sapienza avete in mente qualcosa oppure vi riconvocherete? Non abbiamo alcuna previsione in merito. Vedremo col tempo cosa fare. Va bene, perfetto. Allora grazie mille, se avete ulteriori aggiornamenti ci chiamate, insomma ci fate uno squillo e noi vi richiamiamo. E buon ritorno alla Sapienza, allora, d'accordo? Grazie, ciao. Ciao, un bacio a tutti e a tutti. Ciao.